Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi parte da Bologna perché a Palazzo Palavicini della città è in corso questa mostra su un personaggio dei fumetti di maggior successo, sicuramente Diabolik, una mostra che in qualche modo ripercorrerà tutta la storia fin dalle origini di questo super criminale, e un'intera sala sarà dedicata appunto a questa retrospettiva completa degli album pubblicati, e per la prima volta inoltre sono esposti integralmente al pubblico i disegni originali del Re del Terrore, il preziosissimo e rarissimo numero uno della saga, ricordando che nacque dalla pena delle sorelle Giussani, che pensarono di creare un fumetto per la stazione milanese, piccolo formato, lettura veloce, insomma per i frettolosi viaggiatori. Poi in realtà il fumetto ha avuto questa risonanza incredibile che ha attraversato intere generazioni. Ma per sapere di più di questa mostra presente a Villa Palavicini, il nostro William Piana ha contattato il notissimo vignettista Giuseppe Palumbo, che ci prende per mano e ci accompagna per le sale della mostra. Iniziamo questa nostra conversazione e intanto ci presentiamo. Sono con Giuseppe Palumbo per quanto riguarda la mostra dedicata all'antieroe per eccellenza che è Diabolik, che è già in essere a Palazzo Palavicini a Bologna. Intanto buongiorno Giuseppe, grazie per questa disponibilità. Buongiorno a tutti, buongiorno a te. Intanto facciamo un identikit di questa figura che sin da giovanissimo mi ha colpito subito proprio per le caratteristiche che in maniera molto primaria sono andato a citare. E arriva a Bologna, ci puoi dire qualcosa di più? Sicuramente Diabolik è il ladro più noto d'Italia, che comunque vanta nel suo carnet moltissimi ladri. Ecco, quindi da questo gli dà un primato eccezionale in un certo senso. Le sue avventure sono diffuse in edicola dal 1962, quindi neanche uno scherzo, insomma. È uno dei personaggi del mondo dei fumetti più noto, più diffuso e più longevo tra gli altri. Ecco, l'unico che lo può battere è forse Tex, anzi sicuramente Tex. Ma la cosa più interessante è che Diabolik è noto anche a chi non lo legge, perché è entrato nell'immaginario collettivo di noi italiani. Se tu chiedi a chiunque chi è Diabolik, te lo dicono subito, un ladro certo, o un criminale. Ecco, quindi nel tempo, oltre anche le sue avventure carta, è stato poi protagonista di film, di parodie, penso a Totò Diabolicus oppure a Dorellick e così via. In TV è stato spesso e volte citato in forma parodica, quindi insomma vuol dire che in qualche maniera è radicato nell'immaginario degli italiani. E poi Bologna, perché Bologna? Perché Bologna è sempre stata accogliente nei confronti di Diabolik. Io che ho 25 anni vivo a Bologna, per cui quando siamo entrati in amicizia con gli organizzatori della mostra di Palazzo Palavicini, mi hanno subito significato il loro amore per questo personaggio, e quindi un po' ho fatto da tramite per l'occasione bolognese. Bologna è anche stata a teatro delle riprese dei film dei Manetti Bros. Ultimamente sì, si è conclusa la trilogia dei film Diabolik prodotta dalla Rai e verrà appunto diretta dai Manetti Bros. Quindi insomma i legami con il personaggio ci sono. Tempo fa ho anche scritto e disegnato una breve storia di Diabolik ambientata a Bologna, frutto della collaborazione con un gruppo di donne migranti. Il titolo era Io sono Eva. Quindi i legami ci sono. Ecco. Le attinenze ci sono. A me è una cosa che ha sempre incuriosito, poi entriamo in mostra, però la possibilità di parlarne e certe piccole ma grandi cose mi restano. Ogni volta nella quarta di copertina, nel dorso, dietro, c'era una figura di donna. Beh, sai, i Diabolik l'hanno inventato due donne, Angela e Luciana Giussani. Già questo è un altro dei primati che può vantare questa testata, perché che due donne negli anni 60 inventassero un personaggio di questo tipo, non solo un personaggio a fumetti che già era di per sé sconveniente, ma addirittura un personaggio irregolare come la Diabolica o come era la Kant, già questo era fin troppo sconveniente. E quindi io penso che questa loro decisione di affidare la quarta di copertina sempre alla protagonista femminile, anche se questa regola poi non sempre. Sì, non sempre. Bravo, sì. Però c'è un'evidente prevalenza di personaggi femminili. Credo che sia dovuta a questo ius che hanno imposto le due creatrici. Sì, poi la bellezza del formato, questo tabloid a fumetti, sì, sì, sì. Questa particolarità. Penso che sia stato il primo fumetto che io abbia letto in giovanissima età dopo lo stranoto Topolino, no? Quindi Diabolica ha sempre avuto per me... Voleva dire che eri diventato più grandicello. Esatto, probabilmente. E tanti gli interrogativi, perché è un criminale, però alla fine è protagonista. La sua metodologia con questo modo di estorcere la verità con il pentotal, i travestimenti, sì, sì, sì. Anche che lo portavano, sì, la maschera, identico la maschera, certo. E questo suo travestirsi, che è chiaramente una di derivazione dai feuilleton francesi, in particolare da Fantomas, lo rende tutti noi in un certo senso, sì. Lui è uno, nessuno, 100.000. Sì, e poi più o meno diceva sempre: penso di agire sotto questo travestimento perché più o meno abbiamo la stessa corporatura. Ha più o meno la stessa corporatura con diversi protagonisti, ovviamente. Beh, guarda, mi è capitato per esempio di disegnare l'origine, diciamo, della mia collaborazione. Nascono per il quarantennale di Diabolico, quando mi chiesero di fare il remake del numero uno. In quella occasione ho rappresentato proprio le operazioni di travestimento. Bello. Di Diabolico, dalla una persona di stazza anche importante come la sua, a un vecchietto un po' curvo, ah. Quindi una sostanziale differenza. E lì mi sono divertito proprio a immaginare come poteva accadere questo in una sequenza di nuove immagini con, certo, questa specie di solvenza, assolvenza del nuovo personaggio, complice la sceneggiatura ovviamente brillante di non solo dell'Angela Giussani, ma anche di Alfredo Castelli, che ahimè è scomparso, che anche lui, e che reinterpretò fedelissimamente la sceneggiatura originale. Entriamo in mostra a questo punto. Com'è suddivisa? Quante opere? Insomma, le tipiche domande, allora, per presentare l'esposizione. Allora, è una mostra suddivisa in molte grandi sale, se non vado errato sono 6 sale, di cui un'ultima dedicata al bookshop e una sala multimediale, dove c'è una interessante animazione che non vi spoilerò perché è divertente da vedere. In queste sale viene ripercorsa e presentata la serie, quindi tutti i personaggi principali, in particolare Diabolik, Eva e Ginko. Ci sono moltissime curiosità, c'è una sala dedicata alle origini proprio, quindi ci sono esposti la copertina del primo numero, la copertina del mio remake, ci sono delle moltissime curiosità sulle due creatrici, le sorelle Giussani, c'è la scrivania su cui hanno scritto, la macchina da scrivere su cui hanno scritto, quindi ci sono veramente tante piccole memorabilia. Ma ci sono anche delle sale sorprendenti, quella dove per esempio c'è su due pareti la progressione di tutte le copertine dal primo numero fino all'ultimo uscito, e quello è veramente incredibile come colpo d'occhio. Questa mostra poi in particolare, a detta anche proprio del direttore Mario Gomboli, è la mostra con il maggior numero di tavole originali esposte mai fatta su Diabolik. Quindi è una mostra che soprattutto per i conoscitori può essere sorprendente, ma anche per chi, come dicevo, Diabolik non lo conosce se non per sentito dire, può essere veramente l'occasione per approfondirlo nel migliore dei modi e vedere con mano qual è il processo creativo di una serie così longeva. Poi ci saranno tanti appuntamenti anche in cui io presenterò la mostra, ci saranno dei workshop per i bambini, insomma da qui fino alla fine della mostra, che sarà fino al 20 luglio, la mostra sarà sempre un po' animata in un certo senso. Sì, da percorsi che vanno a corredare questa figura. Questa così. Mostra che già di per sé è ricchissima. Ecco, sì, dalle tue parole che non ho interrotto ho intuito questo. Beh, indubbiamente lo merita. Anche Palazzo Pallavicini è uno spettacolo. Una delle sedi espositive più belle, veramente. Sì, davvero. Quindi io per queste anticipazioni ringrazio tantissimo Giuseppe Palumbo a proposito dell'esposizione dedicata a Diabolik già in essere nella città di Bologna e non ci resta che incontrarci in mostra. E grazie per questa conversazione. Grazie. Grazie a te e buon lavoro e a presto. Scoppieri in bomba, ah, si tratta di me, dai reggiti forte che spacco le porte, ah, arrivo da te, bambina hai scelto la vita dura, scegliendo me, ma i baci che ti do ti fa morire. Se crollano i monti e saltano i ponti, si tratta di me, aspetta il balcone che ingroppa il ciclone, ah, arrivo da te, bambina hai scelto la vita dura, scegliendo me, ma i baci che ti do ti fa morire. In bomba, ah, si tratta di me, con l'urlo finale e un salto mortale, ah, ritorno da te, bambina hai scelto la vita dura, scegliendo me, ma i baci che ti do ti fa morire. Continuiamo riprendendo l'avvenimento, questa sagra di fumetti Betty B. Ciliegia in fiore che si è tenuta a metà aprile nella cittadina modenese, perché in questa grande kermesse sono presenti tantissime voci con banchetti, incontri, mostre, dibattiti, figure insomma preminenti del fumetto. Già la settimana scorsa in questa trasmissione abbiamo scorazzato per gli stand per sentire le tante voci che hanno animato questa iniziativa. Continuiamo oggi con altre registrazioni sempre colte da questo mondo più che variegato dei balloon. Siamo allo stand dei fumettisti dell'Istituto Venturi Betty al Festival, che è naturalmente in questa grande fiera del fumetto. Ecco, voi siete qua in che modo? Siccome siete arrivati e cosa fate? Allora, siamo qua per presentare la scuola e in particolare il corso di fumetto della scuola. E qui infatti abbiamo presentato alcuni lavori sia del corso di fumetto che di figurativo. Ecco, il corso di fumetto tratta del disegno, del soggetto, dello storyboard, della grammatica del fumetto. La sceneggiatura. Sceneggiatura. Chiedo scusa, sono l'insegnante che conduce un corso trasversale di fumetto all'interno dell'istituto e che prende il nome di Venturi Comics Lab. Non c'è un indirizzo dedicato al fumetto all'interno della nostra scuola, dedicato specificamente al fumetto, e quindi viene animato ogni anno nell'orario pomeridiano questo percorso, che si avvale della presenza di numerosi esperti esterni, tutti professionisti del settore, che forma appunto gli ragazzi appassionati al fare il fumetto. Ovviamente ci si avvale di opere di sceneggiatori, di fumettisti veri e propri, e in questi ultimi anni abbiamo differenziato la proposta tra una prima parte di percorso dedicata al fumetto occidentale e una seconda parte dedicata al manga. Ma lei è un appassionato di fumetti o è proprio un disegnatore, un addetto ai lavori? Io tecnicamente sono un docente in gioventù, sì. Ho svolto, insegno tutt'altro che insegno grafica, ma in gioventù ho lavorato nel settore del fumetto e da quello ho riportato tutta una serie di contatti che ancora oggi diventano utili per l'organizzazione del corso. E una parte dei ragazzi che sono qui sono del corso pomeridiano, altri invece sono del corso mattutino di arti figurative, dove si disegna in maniera classica e poi all'interno di quel corso vengono fatti dei focus specifici sul fumetto, quindi una parte quella istituzionale, una parte quella pomeridiana. Tutti i ragazzi sono riuniti all'interno del contenitore Venturi. Ma voi siete già lettori di fumetti o vi siete avvicinati al fumetto con il corso? Alcuni già lettori, altri si sono avvicinati tramite il corso. Sì, così. Cioè, per esempio, personalmente io sono una grande lettrice di fumetti giapponesi, di manga, e quindi già da autodidatta, grazie alla passione, ho iniziato a fare delle ricerche, ma questo corso mi ha aiutato un sacco. Grazie. Siamo con Lido Contemori, però Lido ti hanno dato un nome che è un po' controtendenza, siete i nuvolosi, vi riconoscete in questo? Veramente noi siamo i nuvolisti, che è un po' diverso. Nuvolisti perché facciamo per l'editore Guida di Napoli una serie di libri a fumetti, siamo arrivati al quinto libro, che rientrano in una collana che si chiama Nuvole in città, perché ogni libro è ambientato in una città, sono libri di fantasia disegnati da una squadra sostanziosa di disegnatori molto bravi. Appunto, siamo arrivati al quinto libro e lo presentiamo qui oggi alle 5. Si chiama Le torri di Bologna, gemelle diverse. Ah, sì, che hanno una personalità completamente diversa. La Garisenda un po' più tozza, un po' più sdaura, diciamo così, se posso permettermi il termine, e invece la Sinelli un po' più altezzosa. Ecco, la copertina è bellissima con i portici, bella. Ci può dire qualcosa di più? Allora, la copertina l'ha fatta Marzio Mariani, un disegnatore di Bologna. Il soggetto di questa storia è di Valerio Varesi, che è uno scrittore molto conosciuto. E è stato poi, il testo di Varesi è stato sceneggiato da Pierpaolo Andriani, lo sceneggiatore nostro, e il gruppo dei disegnatori, Allegra, Trei, poi ci sono io, poi c'è De Angelis, Gennari, Giuliano, Lanives Manara, Mariani stesso della copertina, Mariniello, Nardi, la Marilena Nardi, che fra l'altro oggi è presente anche lei qui alla presentazione, e anche Lanives Manara è presente, come Federico Gennari, e anche Alessio Trei c'è. Inoltre a questi nomi si aggiungono Luca Salvagno, Storai e Toninelli, Marcello Toninelli, che è molto conosciuto anche come autore di strip. Ho intuito un pochettino l'idea delle due protagoniste così identificate delle torri. Sì, in effetti il sottotitolo lo dice chiaro, Viaggio a fumetti nelle anime della città, perché le anime sono contrapposte, c'è un'anima popolare, colta, impegnata, c'è un'anima bottegaia, borghesona, affarista. Queste anime vengono raccontate nel nostro libro in maniera divertente, dissacrante. L'ironia è la dominante dei nostri libri, insomma, sono libri dove è sempre presente un taglio umoristico, se non satirico. Certo, ho visto anche che ci sono tutte le caratteristiche. Bologna è la città del basket, ho visto una pagina dove appunto sono ritratti anche alcuni cestisti. La musica, Bologna, insomma, che comprende, ecco, le due che hanno la capacità operaia e quell'altra invece è proprio più altezzosa, al caso di dire, oltre che più alta. Guccini, insomma, c'è veramente un aspetto che racchiude in vignette, in narrazione, quello che è il sentimento di Bologna nel bene e nel male. C'è anche la critica, immagino, Lido. Sì, assolutamente, c'è una critica sempre divertente e divertita, e con questo finale strambo, curioso, a sorpresa. È un po' la caratteristica dei nostri libri, in sostanza, cioè questa di raccontare a fumetti una vicenda che si svolge in quella città e possibilmente che sia curiosa, strana, però anche che faccia pensare, faccia riflettere. Grazie, buon festival! Ciao. Nipop, già intuibile il nome per quanto riguarda questo insieme di questa crasi di definizioni. Entriamo più nel dettaglio però. Allora, Nipop è un progetto che è nato nel 2011 e che è diventato un'associazione culturale nel 2013 e che si occupa di culture del Giappone contemporaneo e di diffusione di queste culture e di farle conoscere. Essendo a BTV immagino che ci sia un approfondimento per quanto riguarda l'aspetto grafico. Noi ci occupiamo appunto di culture pop in modo particolare, quindi ci occupiamo di manga, ci occupiamo di animazione, ci occupiamo di game design e diciamo che la nostra collaborazione con BTV è nata dal fatto che anche noi organizziamo un festival tutti gli anni a Bologna dove invitiamo spesso appunto artisti giapponesi, quindi da questa così condivisione dell'interesse comunque per il mondo dell'arte visuale è nata questa collaborazione. Quali, ok, l'estetica è abbastanza riconoscibile, originale ed è anche molto variegata, che caratteristiche ha come filo conduttore però? Allora, noi tutti gli anni abbiamo un filo conduttore diverso per le nostre attività e quest'anno il filo conduttore è il mostruoso, quindi esplorare il mostro dalla tradizione giapponese fino alle declinazioni nel pop e nel contemporaneo. Il mostruoso che poi ha una tradizione nel paese del Sollevante che è molto particolare, molto differente, intendere l'aspetto di paura per come lo raccontiamo noi. È una narrazione diversa, cioè già dai tempi ci si ritrovava, si raccontavano queste cose perché fossero a tema, certo spaventoso, ma che nello stesso tempo potessero rimanere poi anche dopo. È un po' una caratteristica tipica di questo dialogo nella storicità giapponese. Sì, sicuramente. In realtà appunto il mostruoso, come dicevi tu, è radicato profondamente nella storia, della tradizione e nel folklore. Non a caso appunto abbiamo collaborato a una mostra che si è tenuta a Firenze la scorsa estate, si è chiusa a novembre, proprio dedicata al mondo degli yokai, cioè alle rappresentazioni dei mostri giapponesi della tradizione nelle stampe ukiyo-e. Ed è interessante perché c'è una curiosa commistione, perché i mostri, fantasmi, quindi mutaforma, creature più o meno variamente spaventose, sono molto presenti nella tradizione, ma perché sono percepite come parte del quotidiano. E nel corso del tempo cambiano anche, si trasformano da più giocosi a più spaventosi, però in qualche modo rappresentano un qualcosa con cui l'uomo ha a che fare nel suo quotidiano, perché appunto per la concezione giapponese... Sì, che rimane. Che rimane, esatto, che rimane, perché per la concezione giapponese in realtà il mondo naturale ospita anche queste creature che si collocano in un luogo intermedio, no, fra l'umano e il soprannaturale. Comunque le culture pop contemporanee, tutto il mondo in modo particolare, proprio quello che menzionavi tu, dei mecha, quindi grandi, grandi robot, grandi macchine, in realtà attinge tantissimo proprio dalla mitologia e da queste tradizioni, quindi ci sono molti riflessi proprio di quelle che sono per esempio le battaglie fra gli dei che vengono raccontate nel Kojiki, che è il testo più antico del Giappone, risale al 710, quindi ci sono assolutamente questi riferimenti. Sì, poi si passa al teatro che hanno una modalità, certo, ancora diversa. No, sì. Esattamente. Sì. Sì, al teatro no, in modo particolare con queste movenze lente, la maschera, ci sono tutto il mondo proprio dell'immaginario legato alle culture pop, quindi animazione, manga eccetera, attinge continuamente a piene mani alla tradizione. Ricordando che nel teatro giapponese all'epoca gli attori erano solo uomini, sì, e per le interpretazioni femminili prendevano attori un po', diciamo così, con i lineamenti dolci e li truccavano. Sì, venivano truccati, c'erano attori che erano proprio specializzati nei ruoli, sì, femminili, ed erano quelli che godevano anche di maggiore popolarità. Sì, erano più ricercati. Erano più ricercati per queste, sì, caratteristiche. Perché era estremamente difficile l'arte comunque di interpretare appunto un ruolo femminile per un uomo. Bene, siete qui Perché? Siamo qui appunto perché in realtà proponiamo alcune attività, fra cui workshop di lingua giapponese, e faremo domani mattina, ci sarà invece un talk a tema Sakura, perché ovviamente si parla di ciliegi e in Giappone i ciliegi sono un simbolo molto forte, quindi faremo questo viaggio fra la fioritura dei ciliegi di Vignola, certo, e invece la fioritura dei ciliegi in Giappone, che in questo momento è al pieno del suo splendore. Anche i Sakura sono un simbolo molto forte nella cultura giapponese dalle epoche più antiche fino a oggi. E poi appunto promuoviamo il nostro festival che si terrà il 6, 7, 8 giugno invece a Bologna. Ti aspettiamo, visto che la nostra emittente è di Bologna. Tengo buona questa conversazione. Assolutamente, okay. Assolutamente, con molto piacere. Grazie, grazie di cuore. Grazie, grazie di cuore. Ciao. Siamo qui con una avventrice di questa giornata di Betty Bee a Vignola, che ben conosce il pioniere fin da piccola. Ti chiami? Mara Boni, sì. E come hai incontrato il pioniere? Cosa è stato per te il pioniere? Allora, il pioniere per me è stata la prima forma di lettura proprio, perché io sono figlia di persone iscritte al Partito Comunista e in casa mia, insieme all'Unità, a noi donne a Via Nuova, entrava anche il pioniere, che era per bambini. E quindi tu leggevi il pioniere? Leggevo il pioniere proprio da lettrice e mi sono appassionata alla lettura tramite il pioniere. Non sapevo che fosse diretto da Rodari, non sapevo nulla se non che era bellissimo e appassionante. Del pioniere ti piacevano più i parti a fumetti o i racconti, i giochi? Diciamo che ho cominciato proprio da piccola, a 6 anni, e quindi subito mi piacevano le filastrocche e i fumetti, anche perché all'interno c'erano i fumetti di Pip, Piffin, mi ricordo Tonio, adesso un altro, è passato tanto tempo, e poi Chiodino, naturalmente, amavo Chiodino. Chiodino, la superstar. Ecco. E adesso tu sei insegnante? No, io sono, sì, sono stata, adesso sono pensionata. Quindi abbiamo letto insieme ai bambini Giovannino nel paese dei bugiardi, direi, ecco, è Giovannino. Giovannino nel paese, sì, dei bugiardi, esatto, sì, questo. Ma non ho più trovato il pioniere se non oggi, e niente, è stato un nel bellissimo. Nostro stelle, sì. Sì. Ma ecco l'ultima domanda, quando leggevi i bambini Rodari è ancora presente nella tua esperienza, oppure in qualche modo è molto adattato come personaggio? Rodari? No, Rodari è un insegnante, come insegnante è stato importantissimo per il tipo di pubblicazioni. Noi abbiamo letto le favole al telefono, voglio dire, dopo l'ho riscoperto come insegnante, ma con una consapevolezza diversa, non era solo la lettura, ma introducevo anche la mia mediazione di insegnante e vedevo come utilizzarlo a scuola, ma quello è un altro capitolo. Il pioniere è proprio il mio primo approccio alla lettura. Siamo arrivati allora alla fine della nostra trasmissione. Chi volesse sapere di più del materiale trattato, se volesse anche riascoltare l'intera trasmissione, i siti sono ilpioniere.org o www.radiostarfugico.it. Ciao a tutti, alla prossima.